Avanti, chi è la portante? Marcolino! Cavolisi, ma qua mani non ce n'è oggi. CQ10, a ce n'è guasti? Attenzione, Marcolino Condo, a ci sei? Tutti assenteisti, guasti, qua mani, non c'è nessuno qua. Bubu. Lea de bollami. Adesso me ne vado a mare per la pigliata in culo. Marcolino! Attenzione, Marcolino Condo, ci sei? Marcolino Condo, se sei all'ascolto, cambia. Avanti, chi è? A ce n'è guasti, a ce n'è. Marcolino! Attenzione, canale di guasti. Si è ascoltata la Alfa Number One che chiama. Over, over. Chiamo qualcuno su 10, l'ascolto per una prova radio, grazie. C'è qualcuno l'ascolto su 10? No, questo è il canale dei guasti. Chi è che c'è su 10 che ho problemi qua all'alimentazione? Salve, io ci sono, dai. Ciao Natalino, sono qua coordinate Buti Buti. Eia, eia, che problemi c'hai? No, problemi di attacco all'acino di sigari. Come inserisci a vedo, Natalino? Bene. Sono fermo ora, sono per ripartire, direzione Marchetto. Mecca. Ho detto dammi un controllo, come ti sta arrivando insegnato? Santiago Nove, Radio 5. Però quello dell'accendisigari è una brutta cosa. Metti l'attacco diretto alla batteria perché non va bene per il baracchino. Scoppiato, Sabri. Attento Natalino, Alfa 1. Nara. Ho detto dammi, guarda un po' cosa cambia, da così. Così, questo è il primo passaggio e questo è il secondo passaggio, cambio. Un punto è da 8 a 9, il primo l'hai fatto la rovescia. Va bene, praticamente faccio da 1 watt a 2 watt e mezzo. Sì, anda bene meno. Però considera che sono a coso, a Macomer sono io ora, a Macomer. Vai, Macomer. Adesso ti mando le foto, ti mando. Sono a Macomer in un'altura, da mio compare. Ah, se io arrivo fino a Macomer con 2 watt, aiuto. Tu qua sì, vabbè, non te lo posso dare il segnale, ma la radio è buona, è 4 di radio. Sono in un'altura di Macomer. Aspetta un attimo. Saverio. Oh! Guarda un po' adesso. Il segnale è aumentato. È un'altra radio, però ti sento sempre bene. E il microfono non ne ho toccato, ho alzato solo appena i watt. C'avevo 2 watt poco fa. Ma infatti la radio è più forte ora, è più forte. Io segnale non te ne posso dare, Natalino, non te ne posso dare. Vabbè, stai arrivando bene qua, dai. Santiago 9, Radio 5, alla mia station. Alla grande, qua sono in alto, alto, in alto, in alto, in alto, in alto, nel paesaggio. Nel K, e arrivo fin lì. Ti lo gioco di Zendi, una bombetta così. Bubu. Vuol dire che c'è il varco da lì. Io ho provato a fare una chiamata, ma pensavo non mi rispondeva nessuno. E io che sono andato in bara come sto arrivando. Ecco, non ci credo, non ci credo. Sento anche al signor Giulio, oh yeah. Più bassottino però poco a poco ma lo sento. Ehi, da rimbara solo io. Santino che adesso mi devo mettere in movimento, Siete a Macomer, io sono a Cagliari. Ciao Fra. Io sono qua rimbara, min. Dimmi Natali. Ehi, e dove sei Fra? Io sono a Porto Torres e lui è impossibile che è a Macomer. Ma anche a me mi pare strano che arrivo basso come ti so qui a Macomer. Ecco, io che sono all'imbara come arrivo. Ciao Giulio, buonasera. Io sono a Porto Torres e arrivi 9.25 qua. Io sono all'uscita di coso, proprio alla via Sassari, dai. Come ti sto arrivando io lì, oh, Fra? Quello è. Infatti mi sembra strano che sia a Macomer lui. io comunque sono IBM o Giulio, comunque buonasera, dai. Franco, come ti arrivo lì io? 9:20 a Porto Torre, se nata lì, io non so se arrivo bene lì alla zona di Sassari. Santiago 9, Radio 5 è qua. Vabbè, dai, io sto scendo con una parecchia nuovo gatto, 5 watt, forse anche di meno. Ma a me Barisano che un 2 watt arriviamo a Macomer. A me sa che era la butti lui. A me pure mi sa. Vabbè, dai, che scendo, che sono arrivato a controllare una questione qua e poi risalgo, dai. Saluto a tutti. Ciao Giulio, ciao Natalino e eventuali ascoltori che ci sono su 10. Ok, dai. L'avevo già detto prima, quindi chi c'è orecchie per intendere intenda, altrimenti in camper. Sapete, adesso che sono andato in bara come sono sbando lì? Signor Giusto, le vado benissimo, una telefonata, sapete, sta guidando. Va bene, dai, adesso è più basso, in questo momento. Giulio. Ciao Natali, ciao, sto leggendo. Coordinate Budi Budi, direzione Marchetto. Vedi che era Budi Budi. Cosa hai detto Natali? Che sta andando in campagna, a Marchetto sta andando, sta vedi, è nella Budi Budi. E appunto, perché non lo so. E mai tu dici, ma com'era? E io ce l'avevo due vatti. Sì, vabbè, te lo sai che scherza sempre. Ehi, già lo so. Siamo andati in campagna a mangiare le occhie, che sono tutti e due i magoni, sono un macio e un froscio. Ah, spira. Ascolta, dove ne vengono occhie a sacco barato, che devo andare a comprarne una ora? Perché il cazzo si è andato due occhie e una devi essere un macio e una femmina, e invece un macio e un froscio. È un po' gai e guglie, deve essere... Ti piace questa radio? Non mi piace a lei. Come va questo? Ma è me, una cagata. Non va bene. Non vuoi sentito, non vuoi sentito, già c'ho mal di testa. Tolto, avanti. Ma il mio già è bello, sì, ho sapete. E allora mi pare una gaffittina, mi pare, Natali. Oh. Sì, già va bene, dai. Ascolta, mi state ricevendo bene, qua a coordinate Budi Budi. Sempre, oh. Ascolta, faccio parlare mia moglie, le dico cosa deve dire, parla lì perché io sto guidando. Guida, pensa a guidare. E non solo, anche la bottiglia in mano. Via. Natali, continua tu perché io sto leggendo, dai, ci sentiamo dopo. Ehi, va bene Giulio, buona lettura. Sto bevendo l'acqua a San Martino, adesso le bollicine agli occhi me le stanno uscendo. No, quando stiamo arrivando al QTH? No, quando stiamo arrivando al tuo QTH? Ha detto che sta leggendo. Attento Giulio Lollaro, quanto stiamo arrivando al tuo QTH? Cambio. 9:05. Hai detto tra poco, mi seguiamo una busirata. Ma chi stai passando sotto casa, stai passando? Stiamo andando a comprare l'occa femmina, che si è arrivata a Broccia, lascia. A posto, Sello. No, non stiamo scherzando, stiamo andando qui da basso, vicino alla zona dei punti, dai, per prendere l'occa femmina. Adesso sono fermo qua a passare a livello. Speriamo che ce l'abbia, non si è andato un altro broccio. Ho capito, sono andato a poco io a comprare la bombola lì da basso. Dove rimani giù, spiegami. Tu entri all'ingresso per andare a cosa, come si chiama? Già lo sai, no? di fronte al tabacchino, dove c'è il tabacchino, Maruni. Entri dentro lì e fai 150 metri, la prima a destra, la prima a sinistra che trovi c'è lui. Poi già vede la bombola fuori, già è facile da trovare. Vado, pigliamo un'occa, mi lascio la giardina. Ma con della guzzina ci saluti. Oh, mia moglie è tutta vergognata, Ha detto, oh, che vergogna che c'ho. Poi cosa devo avere vergogna, non ho compreso. Perché c'ha l'antenna sopra la capota. Ma non voglio esprimermi, non voglio dire altro, va. Sennò guai. Ma che piglia il bagaglio di un circo. Effetto zì. Zingari. A posto siamo, bombo. Io non ci ho mai visto Zingari con un malacchino, ma no, comunque, da. Io sapevo che non pagava per un bollo. Comunque, io c'ho un'antenna che è una cannonata, Il malacchino è debole, ma l'antenna è una bomba, È pronta ad esplodere. Vabbè, continuate, dai, che sto leggendo, se no non capisco di quello che sto leggendo. Giù, io no che mi sei proprio facendo il gittofono, come mi senti a me adesso? Sono qua a coordinate Bricolen, cambio, passo, vendo, compro e scambio. È fortissimo, stai arrivando, è ovvio, sei vicino, per cui va bene così. Dai, continua con Natalino, perché io sto leggendo che devo, voglio vedere questo articolo. Vabbè, dai, ti teniamo da voi, Giulio, buona lettura. Natalino Alfa 1, coordinate Sassari Vecchio, come mi ricevi il cambio? È sempre allo stesso livello. A me mi pare che tu non mi vedi nulla, non vedi, o sono più basso o sono più alto, non posso essere allo stesso livello. Ho detto che sì, Santiago 9 qua. Va bene, dai. Io qua coordinate i punti, 131 direzione Papatango. Ehi, già sta arrivando sempre così. Però c'è qualcosa attaccato, se non ammazza il segnale. Adesso vediamo se mi ascolti fino a QTH Campagnolo, coordinate Marchetto. Dovrei ascoltarti, sì. Perché se c'ho l'antenna di plastica dovrebbe funzionare ugualmente. C'era da un po' che non accendevo, Vediamo un po' se sta irradiando bene questa antenna. 9.30. Giulio, qua sono qua, sono qua in zona tua, penso che mi senti, Ma com'è radio per avere un portatile? Perfetta. Va bene, dai. Fatto un affare, l'ho preso 5 euro all'altra. Baracino e antenna. Troppo caro. Va bene, dai, ci accontentiamo, dai, 5 euro non fanno né più ricco né più popolare nessuno. Muta un attimo, dai. E perché questo male va il baracchino? L'ho pagato 7 euro, però solo il baracchino, L'antenna non me ne hanno dato. Siamo scesi per prendere l'occa, un attimino di stand-by. Ok. Cazzo, Gianni Buttino, abbiamo chiesto l'occa, Gianni Adudigliadini. Attenzione, Natalino Alfa 1. Natalino Alfa 1, senti qua. Giulio Dollaro, non mi senti più, no? Bruciate finali. Giulio Dollaro, mi ascolti, cambio VAS? Attenzione, Natalino Alfa 1, Natalino Alfa 1. Attenzione, binario 10, c'è qualcuno in ascolto? Infatti Giulio Dollaro, ascolti la qualunque, coordinato. Attento Giulio Dollaro, ascolti l'anima lunga, coordinate Marchetto, cambio. Attenzione, canale 10. Avanti. Ciao Natà. Ciao Gianni. All'ombra, che si dice? Sì, che si dice? Per far vedere che le spina la porta. Cosa vuoi che ti dica? Portata. E lui racconta a tutti che lei si trova una persona anziana. Attacca uno, andateci. No, negativo, avevo un impegno stamattina. E non ci sono potuto andare. Pure io, visita fiscale. Scappa. Oggi sono in piedi dall'SM non qua. Figurati. Aspetta un attimo, mi prendo fra un po'. Cucca tu sì. Vabbè, Gianni Caganella. Non scappi con me. No, io mica sto scappando. Stavo c'ho la prova. Ho sentato questi giorni, non c'ero, non avevo tempo. Capito già. Se oggi siamo tutti in valle adesso. Siamo tutti in valle che devono fare la facciata. L'altra parte c'ho il cavo attaccato a un'icciodina, non so cosa vogliamo fare. Non mi devono toccare l'antenna perché poi mi girano i coglioni. Ti poveretti, a Marco gli hanno staccato, gli hanno tagliato il filo, lo sai, i muratori. Tagliato proprio. A me non lo tagliano perché io denuncio, cazzo tagliano il filo, le balle si tagliano loro, no, non li toccano. Tranquillo che parlo con il responsabile, gli altri glielo già accennato, capito? Glielo già accennato e non li toccano, fidati. Perché se no davvero, questa roba da denuncia io. E Marco l'aveva staccato dall'antenna e l'aveva attaccato al coso, al punteggio, dai, per non dare fastidio. E niente, l'hanno preso, l'hanno tagliato. Dice, pensavamo che non servisse a nulla, era penzoloni. Che era penzoloni? Era tutto campo girato, tutto fatto bene. Vabbè, certo, però non sono cose che devono toccare loro. L'unica è, ma è lo stacco, l'ammasso, l'antenna lo stacco per un qualche mese, se devo fare. Lo piego, e poi lo riattacco, se devo fare. E Carlo ha fatto così, l'ha staccato e niente, dai. Poi l'ha riattaccato quando hanno finito. Vabbè, certo. Non gli hanno dato nessun problema. Ma Marco gliel'hanno tagliato, a Marco Condor gliel'hanno tagliato. Infatti ha dovuto fare un balun per riattaccarlo. Beh, adesso vediamo un po' questa settimana già. Vediamo perché cosa, vabbè. Si può anche fare venerdì. Senti gli altri, vedo un po', Tonino, gli altri, chi non so chi vuole venire. Ah boh, mi c'era anche Natalino in frequenza, bisogna dirlo a lui. Ma quello è Cocoma, non ci viene. Cocoma ne sarai tu e Gianni, Gianni. Hai capito? Gianni per... Lo vedi, quando tu ti non fai i nomi, vedi, e lui esce così all'improvviso, si sente toccato. Vuol dire che è vivo. E allora? Veramente mi è giunto un cusso, oggi ho fatto in tempo a arrivare in bagno. Chiaramente. E poi nella sua via, capito, è tutto pieno di spacciatori qui, se non ha problemi. Ah no, si avvicinano loro a darmela la roba. A ne vuoi mamma? Ti dicono. Poi sono tutti incazzati neri. Ma non hanno paura che incappare in qualche poliziotto e rimborghiare le manette, cazzo, qualche poliziotto borghese. Raga, chi si manca così guani? Lo fanno alla luce del giorno, brutto, se li ho visti io spacciando e non li vede la polizia. Polizia non vi ne però. Vabbè, se ne sbattono, non si nascondono neanche. Proprio in mezzo alla strada si mettono a spacciare. Ogni tanto vedi che il carabinieri scabuzzendo da che vicolo. Non ne frega nulla. L'altro giorno c'erano le fiamme gialle vicino a casa con due furgoni, uno normale e l'altro quello cinofilo. Sicuramente stavano cercando qualcuno. Quando c'erano i cani è perché stiamo cercando droga. Sono passati uno dietro l'altro, sono andati verso via Ciriaco Carro con la droga lì. Devo dire per zona di spaccio Burinchivi. Le mani te le immagini. Vicino a casa c'era anche una casa d'appuntamento, che praticamente c'è che c'era un via vai, notte e giorno. Qua. Anche questa. Oh, qua c'è di tutto lo stesso, ci sono tutti i servizi, prostituzione, spaccio, di tutto. È arrivato la scelta, avanti. Un attimino vado in farmacia che devo prendere una soluzione fisiologica già, e domani c'ho la visita, c'ho la visita, speriamo che abbia finito, già mi fa male molto meno e poi mi fa male ancora. Naso. E allora? Sì, ma piano piano già ti passa. Per forza, va ogni naso qui su Lucca. E tu l'hai visto qui su Isotto? Sicuro, sicuro che mando tutti due, a commissa, io. Lo morimmo a capappare, a vedere, si perdi ma chi tu la fai di venari. Pisciai a Tari. Avvicinare a Tari, poi a capappare, se vinci tu, pago io a tutti quanti, se perdi tu, paghi tu a tutti. La fai di. Occhio che lo scudo in altra banca, io li faccio la banca, non la compri su nulla, bello bene. Sì, ogni fesserina della pressa, io vicciai, volevo accapappare, cappelli, paga la zena. Sicuro, sicuro la paghi tu, a commissa, io. Sì, bisogna vedere. Quando arrivi a avere la misura che va giù, io può darsi poi buru va a pindà. Può darsi. massimi. Ma so questi senti come quasi non dico quanto è rocco, ma vedi un po', vedi un po' tu. Ma vedi un po' tu quando lo sbatto sul tavolo. Aspetta ora che prendo questa carne. Non mi piace questa carne, ma ho preso cazzo di trucca, si credi si hanno tutti quanti a dito in bocca, ma ho già preso Gianni c'è la misura, io ci sai già, se chi perde paga. Non è faccio di queste cose, per carità, a me mi piace di verme, non rimasci. Vabbè, ma se ho venuto a commissa, la misura lattarino. Vedi che mamma ha fatto gli gnocchi. Se sei qua, se tu hai visto lo sto ponte con il piede piccato nel braccio e con l'aerosol, cosa stai dicendo? Boh, e i due ti hanno riconosciuto, che c'hai i baffi, c'hai. No, io c'ho il pizzetto, c'ho pure. Hai capito, bello me? Sì, se a questo la parla di queste cose, ho fatto la vergogna. Che cosa stiamo qua vedendo? Di pizzetto stiamo qua vedendo. No, prima stavo pensando. Ma tu pensi male, pensi. Capiti, ma mi dice un gatto, è mai fidato davvero, mi Luca. Beh, stavo parlando di cervicale. Io mi sono spostato, pensavo che stavate parlando del naso, capito? La cervicale, del naso, e beh, sicuro del naso. Luca ce l'ha più lungo, invece io ce l'ho più grosso. Vabbè, c'è qualcuno che sta sempre tirando. Adesso lo chiediamo a Concetta. Concetta, il video si vedrà giù più grosso di un naso. Cazzo, di chi sono i Luca? Lui è affattato, invece lui è lungo. Allora, è sicuro. Niente. Se ne posso fare. Purtroppo la natura, non la sa così. Ma se mi ha detto, io volevo rifare, ma tu, perché il naso, per quello non c'erano i frocetti. Infatti, tu c'hai gli occhi a palla, bocca da squalo e naso dantesco. Naso alla città di Bergerac, c'è di mai. Comunque quelli che c'hanno il naso, come Luca, sono nasi aristocratici. Ce l'hai grosso perché è tutto pieno di mamba. Ripeto, io se si consuma, questa era Califano come ce l'aveva consumata furia di sbiffare. Beh, Califano, ma io di la piglia cocca non naggio. Ma c'è sempre fatto, sia, perché dici no? C'è sempre qui. Ma sempre così, cosa perché fai così? No, io non sniffo, io fumo. Ah, vero. Dico di spicciomi. Io sono Maria Salvatore, lo voglio dire. Cristo Maria, un droga davvero. Abbiamo un'anima. Io l'avevo visto da poco prima di morire. C'era al quadrato con la macchina, si è avvicinato. E lei qua cosa ci fa? No, e tu qui ragazzi. Tutta di maniera che ti venga a denunciare. Era un bel simpatico. Veramente con il cuore molto vicino a questa madre che è stato di tutto. C'è una volta stavo lavorando lì con i giardinieri quando era al verde urbano, al comune. E lui c'aveva quella motocicletta, te lo ricordi. E mi è giunto un guidamoto, cazzo, non si è fermato benzino. Frate, a nei di quell'erba. E ne è un campino, capai che hanno preso taglieri. Cazzo che storia, ce la fumiamo tutta. Cazzo di gli mesi sono cagliuti cazzo di canti ridenti. E se no non era proprio parlato l'inglese, la te non ricordi quando faceva i contest a casa tua? Cazzo, una macchinetta e non si. Cioè a vederlo non sembrava, invece era bravo parlando l'inglese. E mi abitava un meme. E chi? Sai che c'è un brecco. Avanti! Ciao Marchetto, mi hai sentito? Ehi dai, ciao Salvezzo, ti ho capito che sei tu, dai, stavo scherzando. Santiago 5 qua, sì. Marchetto, Villa Gorizia lì, ti arrivavo 9 a Sassari. La terra quale stai usando, quella della macchina? E io Santiago 5 Radio 3. Cava cava. Io da quella zona lì arrivavo 9 a Sassari. Ci avevo sempre gli attacchi per col malacchino, ragazzi, e poi non ti sei fatto più vedere, mi davi in macchina. Ne avrà 4 o 5 quello lì, anda pure. Dove sei Salvi? Dove sei Salvi? Ma sono basso, ti sento, mi ascolti tu a me? Ti ascolto un basso, avanti break, chi è? Tutto so. Sta uscendo. sentendo male, forse dovresti spostare un po' dalla bocca, oppure abbassare l'amplificazione. Avanti, ho capito chi sì. Forse ho capito Marco, boh, avanti, ripeti. Adesso ti ho copiato bene, ciao Mirko. Non so se mi ascolti, penso di sì, se mi stai rispondendo mi ascolti. Sono in compagnia di Gianni e di Natalino e Savino. Però Savino non ho capito dove sei, avanti Gianni. Ciao Mirko, ben sentito, cordialità, la stazione doppio run di Sassari. Avanti di nuovo e poi vai per Natalino. Non mi piace, non è chiara la radio, è cupa, non è buona. Però oggi è comprensibile, dai, avanti Natalino. E capa, io in quella sento male a Savirio e a Mirko proprio Nisba. Troppo QRM. Senso, QRM è zero, se vuol dire 0-0, a Mirko lo sento abbastanza bene. Savirio è un po' bassino. Savirio dove sei? Ho capito. Attenzione, non rimancia lunga, ci ascolti qua, gebe. E a Marchè. Ah, ho capito. È zona un po' strana, Marchetto, secondo dove ti metti? Avanti di nuovo, Alghero, Mirko. Oh, adesso la sto scendo di radio. C'è arrivato di segnale, ma di radio no. Quel microfono sicuramente non si è adatto, ricambi la capsula, oppure rimetti un altro microfono, perché è strano, mi capito? Esce come se fosse fuori frequenza, così. Ma sei attaccato? Savirio, dov'è che sì, non ho capito. Santiago 1-2, sì, poi ti ascolto, perché non c'ho QRM, QRM zero, mi hai detto poco fa che mi ascolti bene a me. Capito, poi sono agganciato, aspetta che sgancio. Sganciato sono 2 watt, aspetta. Poi non posso, avevo sganciato adesso. E io prepotente, andare, là. Ha fatto un ottimo lavoro Fabrizio con l'antenna, non ce n'è. Quella campa là, è sicuramente più di me già. Avanti già. Anche a me l'aveva fatta, mi è campato un bel po' di anni, altri 7-8 anni mi ha campato, poi l'ho voluta distruggere io, se no poteva aggiustare. La manta va davanti, non so perché l'hanno levata dal commercio. Sai che ha chiuso la manta? Vabbè, male a costruirne, visto che ci sono questi costruttori, a costruirne una simile, là. Beh, non c'è la Graziuri che è ancora migliore di quella lì. La Graziuri è uguale alla Mantova, è gente che lavora lì alla Mantova e si sono messi 2 operai, non so se sono parenti o che cosa, e hanno fatto la Graziuri, cavolo, va benissimo. Insomma, come si è fatta la Graziuri? Non ne ho idea. Cioè, c'è la Carlo, non mi ricordo. Dai, la dimmi oggi, arrivo subito, vado in farmacia a prendere questa cosa, questa soluzione fisiologica, perché mi serve per domani mattina, devo fare lavaggi. Per stanotte anche, stanotte e domani mattina. Perché domani mattina devo andare senza crema. Se no mi ribadisci il luci, mamma mia, me la sgudimenti qua. No, non ce l'ha Carlo la Graziuri. La Graziuri ce l'ha Gavino di Portottone. Ho capito, no. Vabbè, arrivo subito, ciao. Eia, la Mantova va costruita con materiale più grosso e più resistente. Cava cava, a chi spetta? Avanti, Natali. Cosa vuoi? Chi ti dica? Cazzo, è strano, oggi c'ho QRM, 5 di QRM. Con quell'antenna, boh, io non avevo mai QRM con quell'antenna lì. Né QRM né stazionari, non me ne davo. Eppure c'ho QRM oggi. Che vuoi che ti dica? Natalino, Natalino, paura, ascolti qua, cambio. Basso basso di radio ti sento, Savi. Perché c'ho troppo QRM, per questa antenna è troppo 5. Aspetta, dai, sto scendo al gioco, io sono un posto lì. Sono ma all'altra, adesso come è andata, ho già recuperato qualche metro perché la volo un posto. Ok. A 7 a 9, Savi. Guarda, però io vado in salita e dovrei arrivare già a 1000, ok? Sì, 7 a 9. Era in un fosso poco fa, hai capito? Le antenne sono buone. No, la prima lo so. Sei tu e pensi di quel tempo parlare solo bene, non male. Sì, sì, vabbè, le condizioni, diciamo, se sono critiche le condizioni, arrivo un po' più basso, però la senti sempre. Sì, in vendita di nuovo, l'ho vista oggi in vendita, 33 qualche cosa costa. Questa è una cazzata mia, va benissimo. Antenna polacca, venduta in Germania. No, io ho la PLC 800 e va benissimo. Lui non... Io ho due Mazda e due Turbo 2001. Tutti e due vanno bene, però sono troppo grandi. Sono troppo grandi. C'hanno lo stilo grosso, poi sono un bel pesanti quelle lì, capito? La mia è più leggera, perché proprio lo stilo ce l'ha fino fino. Complimenti. Questa che c'è noi da qualche anni, molto più leggera di quella che sei tu, fidati. Non lo so, ce l'ha anche Gianni quell'antenna, ma sono buone come antenne quelle. Gianni va via la 2001, che però era troppo grossa, troppo bisante. Ma chi sa, pesa un trono, vi ha giudito più una volta, e infatti gli si staccava dalla cappotta e faceva danni. Questa qui non si muove, neanche si arriva alla bufera, non si muove. Io sono andato a 140 e in macchina l'antenna rimane sempre fissa dov'era. E anche la mia rimane fissa dov'è, perché è più leggera di quella della 2001. Io ho la PLC 200, la PLC 800, della Sigma è un po' più leggera della 2001. E pompa voci. È un'antenna che è sempre riuscita, eh. Oh, piano! Un coglione allucinante è passato in viale Martino, è passata una macchina, numero 80-90. C'è un culo a tre, c'è da... Dove sei? Dove c'è la scuola? Proprio davanti alle scuole, elementari. Ho capito dove sei. La conosco bene quella zona, la faccio per giorno, mattina e sera. È brutto, miserabile, bastardo, cazzo. È passato 80-90, se non mi butto a destra, ti bide in pieno. Poi c'è quella parte dove restringe la strada, se passa un camion lì, dove c'è la curva e poi sale verso su, no? C'è quella strettura. Sì, le abbiamo aggiustate noi quelle scuole. Restringe la strada lì, è pericoloso. La stessa lì sono 18 km, l'ho misurato. Che regala? Sì. Fa Napoli. Se arriviamo c'è che già rubiti, non me ne sono accorto un cazzo. Oh Gianni, cerca di abbassare un attimino il volume, se no vengo sotto casa e ti metto la portante. Se arrivendo i cazzi no, che ammaletta, ammaletta parole. Io sono solo con l'apparecchio. Si è andato qua, adesso sono attaccato, guarda. Adesso è saturando appena. Adesso dove avevo girato tanto, dove siamo qua? Cosa Parone, chi Gamana, chi c'ha zona di Inchivi, Erbavuglio, chi c'ha zona. L'azienda del Bavuglio. Cazzo, qua si vende a maletta a vero. E sono con il gas e 3+4. Come esce questo microfono? La radio chiara? Un bel forte sì, già, tu conta se meno che in 5 in macchina, bambini, musica accesa, non sento manco la musica, sento a te. Già va bene. Vuol dire che funge questo microfono. Ehi, è un che funge. Video si dipende, esce bene. Oh, sperando che io ora vi sto arrivando meglio, non lo so, sempre qua in mezzo alle campagne sono, in mezzo agli alberi. Come vi arrivo? La mese 9.5, sai. Io non ti chiedo segnale perché so che sei comportato. E da te da lì come sto arrivando? Santiago 9 arrivi qua. Oh cazzo, da te c'è Pinovi, posso andare pure a Bancari, in casino, c'è Pinovi, No, non è sempre 9, poco fa arrivavi più basso, solo che questo è digitale lo smitter, non è di quelli a lancetta. Il 3009 mi si è crepato. Quasi quasi imboccando la buti qua, adesso arriverò sicuramente meglio Gianni, a te ti arriverò sui 9.10, 9.15, dai. Salve, se ti interessa sto vedendo un 3009. A te, avanti, tendo pure la preparazione, che è nuda sì, che hanno fisica questa antenna, no? Oh yeah, siete francesi, sento. Io, la buti sempre, anche io. Alla buti qua, in Salitella. Salitella vicino al parcheggio dei camion, cosa cavolo, dove c'è di fronte ci sono le ceramiche. Penso che ora ti arrivo un attimino meglio, Gianni, cambio. Sì, da 9.25 a 9.30. E te, va vos? Natalino, come ricevi? 9 no, qualcosa, io sono più distante da cose, sono più in basso pure di Gianni. Gianni, logico, virai di fronte, Iero Grillo arrivi 9.30. Vai, che c'hai la radio tirchia, vai la partita, vai. Non è tirchia, è che ci sono gli Smith da Lancetta e questo è di quelli a barrette, digitale. Tutta la casa di Smith. Non puoi pretendere con questo Smith. Così mi segna, così ti dico. Ma purtroppo quelli digitali danno segnali forfettari, non sono segnali precisi. Alleluio, Ciccio. Sei sul DB adesso. Io la verità, segnale non me ne posso dare, perché ho un portatile con 2 watt in antenna. Però giudico in molto intendito da tutti i bassi. Dalla rotatoria di Tintino, mi ricordati dalle saline, Gianni, che tu mi hai risposto. K. No, l'antenna va alla grande, poi per il prezzo che costa è bella, è una bella antenna anche se ti calenta. Ecco, c'è una propagazione allucinante, sento un po' di brutto sotto. È logico che la senti la propagazione lì. Sì, perché c'è il mare di fronte. Allora. Aspetta che c'è qualcuno che sta chiamando, c'era anche quello di Alghero. Avanti, chi chiama? Alghero, avanti. Lo so che sei lì, ci mancherebbe. No, non ti sento meglio, è sempre lo stesso, è come se fossi fuori frequenza. Perlomeno io ti ascolto così, poi non so gli altri. Natali, come l'ascolti tu? Due sono le cose, o abbassi il volume e ti metto la portante, Gianni, E mettimi la portante. Adesso sono qua di fronte al distributore di Cugurra. Come mi ricevi? Dove Cugurra? Dove? Dove è Cugurra? È la Budi, quello di giù il distributore, non quello di giù. Ma si chiama Budi? E prima era di Cugurra. Vabbè, dai. Comunque già ti ascolto, va. Ti manca ricca, minimo sono 1,40 al gioco. Tu però che sei bloccato la bombetta. Ma devo abbassare il mic lì. Ci ho battuto l'apparecchio, il gas questo qua, è una signora apparecchio il gas, l'ho sempre detto io. C'è un po' di propagazione, si sente sottofondo, ha ragione. Si sta alzando, adesso c'è la Santiago 3 qua. Furti, adesso sono entrato dentro la città, sono dentro la teologia. Ma oggi non lavori, sai? Mai. Ah, oggi è lunedì, è vero. Ho capito, oggi sei in tournée allora. Sono così in tournée. E a pescare andando stasera? Mi cambierà ad andarci. Cosa? Quando mi muriere mi vanno ad andarci. Via. Vabbè, dai. Cioè, bello, anche a me piace pescare, ma con la canna, però, dalla barca. Cioè, guardate, una volta abbiamo preso 22 kg di pizzurne col GPS, però gliel'hanno segnalato dove c'era tutto pronto, capito? Canne elettriche, questo amico ridirà. Dai, vi saluto che sto scendendo un attimo dalla macchina, dopo, ciao ragazzi. Ciao. Sì, un attimo, sono al telefono, fai andare avanti con gli altri. Destra 117, questo è tutto. Mandiamo un abbraccio a Maria, a tutta la famiglia. Ciao Maria! Ciao Maria! Grazie. Hola. Come te? Stavolta che ho queste torte pazzesche, io sono in linea, perché non poteva pensare che la prima manuali possano. Attenzione Marcolino Condo, ci sei? Attenzione Marcolino Condo, se sei all'ascolto, cambio. C'è rimasto qualcuno qua? Natali, tu sei? Eia! E io chi sono? L'amico mio di Canica. Capasa. Ciao Natali, come stai? Non tanto bene. Caspita, perché? Pieno di acciacchi. Che non è agli acciacchi? Però c'è la radio un po' bassa, Vittù. Bassa? Forse ho toccato qualcosa. dopo. Vediamo un po', adesso ha aumentato. Signore, adesso va bene. Ehi, qualche cosa è successo. Vabbè. Quando non l'accendi spesso, purtroppo anche i potenziometri ce ne vanno a fare quella soglia là. Adesso già ti sento bene, dai, ribasso di radio. No, questa è la BB più 5, probabilmente il potenziometro che non lo tocco mai, quindi si è un po' assopito, se si può dire. Oppure magari la batteria è un po' andata, cioè. No, negativo da quel punto di vista, perché lo sto alimentando con un alimentatore piccolino di telefonino, capito? È un 8 volts, però lo sto aumentando, lo sto alimentando a 5 volts, che va benissimo. E ho capito, vabbè, magari è il coso. Come ti arrivo io lì? Adesso come radio va benissimo, è perfetta. Il segnale è 3,5. Cazzo, così basso ti arrivo. È così, beh, io forse ce lo smetto un pochettino pigro, non lo so, ho capito. 3,5 massimo. Vabbè, io ci avevo 2 watt, vedi un po' adesso si è aumentato qualcosa lì. Beh, adesso si è andato a 8. Io ci avevo 2 watt, ci avevo, capito, Vitù, con 2 watt è logico che lì è un po' distante, diciamo, da qua. Qui io sono in zona bassa pure. Già lo so, ma adesso si è andato benissimo, ma bella amplificata, potente, adesso va benissimo, No, ma ti sentivo benissimo anche prima, non c'è problema. Lo so, la radio è sempre quella, non ho toccato il microfono, capito? Il microfono è sempre come era poco fa, solo che poco fa avevo 2 watt solo. Certo, me ne sono accorto che hai avuto un aumento notevole. Non so se c'era qualcuno sotto, avanti. No, sono i watt dell'apparato, capito? E che questa la potenza si può regolare. È un bel apparecchietto questo. Ho fatto appena in tempo a comprarmelo, perché il 3009 mi si è rotto. Un peccato quell'apparecchio. Si sentono le modulazioni però della tua consorte molto alta e va a superare la tua voce. No, adesso aspetta che abbasso il microfono, lo metto a 3 e la televisione che magari si sente, perché anche se qua io la sento bassa la televisione, questo cavolo del microfono amplifica che cosa male. Vediamo un po' se va meglio. Fai un ultimo passaggio. Guarda un po' se va meglio la modulazione adesso e si sente di meno la televisione, perché amplifica un bel questo microfono. Non ha diminuito molto, no? Siamo lì, per lì. La modulazione esterna dalla tua voce entra molto più potente, perché entra la tua voce potente e anche l'altra, e quindi sono quasi uguali. E adesso ce l'ho a 2 il microfono, guarda un po'. Adesso ho diminuito. L'ho diminuita proprio per non sentire la televisione, che magari dà fastidio, perché c'è la 50 e se la sta guardando e mi romperebbe le scatole a dire di spegnerla. No, per carità, lasciala guardare quello che gli piace a voi. Noi non ci interessa, se ci disturba non ho problemi. Adesso meglio va la modulazione. Sì, adesso è bella chiara, dai. Ha diminuito comunque, si sente sempre, però molto, molto meno. A 2 ce l'ho il microfono. Dai, adesso va bene. Ma soli siamo, non c'era nessuno in campo? E c'era Gianni, c'era Luca, c'era Saverio, però si sono allontanati. Anche Gianni è al telefono, quindi magari già rientra dopo. Io ho capito. E vabbè, e comunque se qualcuno vuole entrare, io ogni tanto sento una specie di sotto di te che sta cercando, ma non so se vuole entrare. Boh, vedi, a te. Non lo so, io non sento nessuno perché c'ho lo squelch inserito per non sentire il friggitorio del QRM. Ho messo lo squelch. Guarda, io QRM non ho nulla. Perché hai il QRM tu? Ce l'ho a 5. c'ho QRM oggi, boh, non lo so, molta gente dice ce l'ha a 0 e io ce l'ho a 5. E come mai a 5? Ma è strano? Strano sì, però io ce l'ho. Beh, il QRM mi disturba un po', gli devo dire la verità, ma io ho raro che ci abbia QRM qua in questa zona, devo dire, però certo, quando c'è il QRM ti disturba un pochettino e devi stare, molte volte supera la modulazione. E magari sono le macchine, perché qui è una via centrale, c'è molto passaggio e c'è il QRM per quello forse. Forse sì, però ho notato che mentre parli non riesci a superarti, ma però se ci sia qualche portante vorrà entrare, non lo so se qualcuno che vuole entrare magari non riesce a... Boh. Prova a farlo venire avanti, se vuole venire avanti qualcuno, boh. Quando stai modulando tu c'è sotto una specie di, come se si è, suonando un clacson, no? Che però è basso sotto di te, magari vuole entrare, ma se vuole entrare, perché entra quando stai modulando tu? E cosa vuoi che ne sappia? Io ho il QRM a 5 qua. E allora sono modulazioni esterne. Può darsi, o è propagazione, che ne so. Io non la sento perché c'ho lo squelci, la verità. Perché dà troppo fastidio. Ciao Vittorio. Ciao, come va? No, buonasera, Copi, Porto Torres, è nata. Tutto a posto. Avanti Porto Torres. Sì, avanti, me lo so, da Natalino, non mi intendi. C'ha l'apparato storto. Buonasera comunque, Mario, Porto Torres, ma non riprendo più, era solo per un saluto, Grazie mille a te. Ciao Mario, Natalino, ti stava salutando Mario, Porto Torres, sicuramente non lo sento. C'ho lo squelch, c'ho QRM, l'ho messo per quello, perché se no mi do cacutami. Lu Brigitturio, mi salutamelo se mi sente, non lo so io se mi sente lui. Sì, lo sento, stasera riesco a sentirlo, fortunatamente, per quello che volevo vedere se lui mi ascoltava, vabbè, un po' di propagazione c'è. Ok, non riprendo più, buona serata, ciao a tutti. Mario, come mi ascolti a me a Porto Torres? Segnale di 5, radio di 5, che potrebbe essere anche più forte, mi pare di averti sentito anche in migliori condizioni. Ho capito, radio 5, segnale 5. Sì, K, non ce l'ho. Ok, da, va bene, buona serata Mario, avanti Vittorio, l'hai sentito a Mario? Sì, l'ho sentito, lo saluto, molto basso, eravamo che l'ho ascoltato abbastanza bene, non c'è problema. Non so se lui ascolta me, comunque, se stai andando via, buon proseguimento di serata, ciao. Non mi ha ascoltato, forse lui. Va bene, Vito, cosa mi dici? Tutto a posto? Ma tutto a posto, quello che è a posto, come diceva qualcuno, quello che non è a posto purtroppo non lo è, ma comunque siete davanti, dai. Siamo più incrociati, Vito, intanto ci incrociamo da qualche parte, K, avanti Natalia. Ui, anda bene Mela. Ma strano che ci abbia questo QRM, si è abbassato a 4. Piano piano può darsi che non può rimanere, il QRM poi è propagazione, no? È la stessa cosa, quindi questo segnale prima o poi dovrà diminuire. Ma vediamo un po' se diminuisce. Diminuisce lui o diminuisco il, come si chiama, lo squelch. Forse c'era una portante, ho visto, quando stavi parlando tu l'ha mollata subito, avanti chi vuole entrare. E tu Vito, sempre la stessa antenna, cioè, la matto qua. Sempre quella, è marcia, tutta pratica, però sempre funzionante. Meglio bussi. No, io l'ho ripristinata, cioè, però l'ho ripristinata. No, guarda, le antenne purtroppo se non le curi e non le smonti, almeno ogni 2 anni bisognerebbe smontarla, pulirla e rimpiazzarla. Però chi è che ha questa pazienza e il tempo a disposizione per poterlo fare? Mi pare quasi nessuno. Un attimo di piatto, arrivo. Lu, ci sei? Forse si è spostato. Oh, è un bel guaio. Purtroppo queste antenne, tu nata lì, già ne c'è qualcosa. Quando abbiamo smontato qui, per carità. Infatti. Una zanzara, non siamo riusciti a sistemarla bene, però... è lì, sta funzionando, perché comunque c'ho sempre quasi, esce per il stazionale, sono 4 e mezzo, purtroppo è così. No, io l'ho cambiata l'antenna perché l'altra, come pioveva, mi si pienava la bobina d'acqua e mi salivano le stazionarie fondo scala. E allora l'ho cambiata e mi ho messo la Game Master, quella senza radiali e non c'ha niente. Ho capito. Va bene, anche quella va bene. Però sai cos'è, Natale? Il problema è questo, che io non sono più un ragazzino che vada sul tetto. Se mi gaggi mi faccio a pezzi. Non ho più, purtroppo, non le capacità, di piazzarla ce l'ho. Però mi manca il coraggio, perché se lì sopra il tetto, scale, sali, scendi, guarda, è complicato e non mi voglio rovinare. Sì, anche noi abbiamo una certa età, Vittu, e non ci conviene, capito? Abbiamo una certa età e purtroppo devi soccombere. Se avessi 40 anni in meno, nel tetto sarei salito come un gatto. Anche 20 di meno, sarei stato brinchittato. 20 sono pochi per me, almeno una trentina per essere proprio bello snello. Sì, con 20 anni di meno già saresti stato brinchittando anche tu. Non sei così decrepito, no, Vittu? No, non sono decrepito, però manca, mi sto accorgendo che manca quella snellezza, quel comportamento fisico che avevi 20 anni fa, non ce l'hai, manca. Quando superi gli anta, è un casino. Già lo so, già me ne sono accorto già. Io poi sono stato male in questi ultimi 3 anni, ma male, però sono vivo per miracolo, guarda. Lei già me l'avevi raccontata quella storia lì. Male sono stato. E ancora non ne sono uscito, che sono, non sono messo bene, là. Comunque le portate terre elevate, purtroppo certe cose non si possono fare e non le fai, pazienza. Quando poi arriverà il punto di non poter farne nulla, vuol dire che rimani bloccato. Io devo ti dire, la vita bisogna farsene una ragione, e non possiamo campare in eterno, non si campa in eterno nessuno. Quindi quando ci arriva a quel periodo lì, bisogna dire boh, stop. E infatti io sto per arrivare allo stop proprio. Boh. E non sei poi tantissimo anziano, tu ancora già reggi, io che ho qualche anno in più ho andato lì, ma non sei sempre, vediamo se c'è Luca. Sì, sono qua, sto dando un telefono, guarda che non ho andato per sbloccarlo, ma ho fatto un casino, mi stanno a toccare, guarda, potevo lasciarlo a me così come me lo mangiavo io. E anche tu sei impegnato, e meno male che qualche cosa si riesce a fare. Ma infatti, qualcosina ogni tanto, prima di più, prima già un po' potevo lamentare. La giornata ci usciva sempre, adesso un po' meno, comunque va bene. Dai. Li potete tirare, perché oggi fare affidamento a fare grandi cose non ce n'è, si vive la giornata purtroppo. Si conferma, proprio così. E tu Natali come stai andando invece? Sì, qualche volta a piedi, qualche volta in bicicletta, qualche volta in pullman. Oh, yeah. Come vuoi che vada? Io non mangio. Ogni tanto a piedi, ogni tanto in tram, ogni tanto in bicicletta, ogni tanto monopattino, ogni tanto con i pattini, ma mi serve la maggior parte delle volte a piedi. Ma volevo interpellare a Luca per una cosa, ma lui, io mi sei imballato il case, ma non è che tu ne avresti qualcheduno a, così a seconda mano, un po' carino, perché il PC ce l'ho, quello, il portatile, però la scheda audio del PC non è molto carina. E invece quella del Case è più buona, ho riscontrato questo. Non è che ne hai qualcuno così. Vittorio, no. Guarda, ne ho uno di un amico, io l'ho sistemato, un i5 di processore. Buono, super veloce, senza Windows 10, 4 GB di RAM, è bello, Però non lo vende perché io l'ho sistemato, era bloccato, non so, sistema operativo, non so che cosa, vabbè, incasinato. Non lo vende perché lo vuole mettere in ufficio. Ed è un ottimo case, piccolino, ma veramente buono, Lenovo. Perché è una marca buona, Ho capito, ma a me non è che serve per lavorare, mi serve per giocare, lo uso solo per quello, per fare registrazione, io già, ne ho già uno, ma per registrare, per fare, se io mi voglio registrare ad esempio un canto suonando eccetera, ce ne vuole un altro, perché quello serve a fare il passaggio, perché su uno c'ho tutti i programmi di registrazione, quello mi serve come passaggio dal mixer, entra lì, regolo e la registro. Purtroppo si è imballato un casino. Ah ecco, capito. Ma questo è ultimo, è ultimo. Ora non lo prende. Diciamo che ha un... quanto potrebbe vendere? Un centinaio, 150, 120, così. Solo il case però, è un i5, se vai a comprarlo te lo fanno pagare. Poi di quelli piccoli anche. Con la ventola Intel è abbastanza, cioè abbastanza veloce. Sì, se capita, Vito, per caso già ci sentiamo e hai contato la tua figlia su Facebook e glielo accenno, se mi capita qualcosa di buono. Sì, no, mi fa piacere se riesci a recuperarmelo. Purtroppo, sì, ormai stanno cominciando ad estinguersi, però per poter fare questo lavoro che serve per me ci vuole quello. Quello che stai dicendo tu, quelli stretti che stanno facendo adesso, la scheda audio è una zanzara, non serve, è bassa come volume, non è fedele, me ne accorgo, c'è qualche ronzio, anche se il programma che sto usando io quando registro posso eliminare i frusci e queste cose qua, però non serve, questi nuovi, questi piccoli che stanno facendo adesso, devo dirti la verità, la scheda audio non serve, anche nei PC non serve, i portatili non servono le schede audio, per fare karaoke va bene, perché karaoke è dentro il mixer e poi mandi il segnale, però quelli là non vanno bene. Allora io ho comprato un portatile abbastanza nuovo, un i3, e vabbè l'audio, c'ho la scheda audio io, esterna, comunque anche questa qua c'ha un audio così pessimo, e comunque sia, l'ho pagato 100 euro, nuovo, abbastanza nuovo, però ce ne ho messo altri tanti sopra, perché c'aveva l'hard disk meccanico, mi avevo messo l'SSD, era stato solido, in più era 4 GB di RAM, l'ho portato a 12, comunque tra riferrafa mi è venuto 200 euro, là. 200 euro circa, ed è abbastanza nuovo, e anche veloce. Vabbè, quello potrebbe andare bene, ma io non voglio spendere più di tanto, guarda, mi hai accennato poco fa, 100, 120, 130, già siamo quasi fuori dalla, perché più di quello non si vale un case. E tu metti una di quelle esterne di schede audio e non c'è bisogno che ti cambi il PC. No Natalino, non vanno bene quelle esterne, perché adesso ti spiego perché serve il case, perché nel case tu in Google quando installi un sistema operativo ti dà il mixer e l'equalizzatore, un programma te lo dà già installato lì, capisci? Quello che stai dicendo tu non va bene, perché quello ti dà solo il segnale ma non deve regolare. Allora quando stai registrando entra tutto nel mixer, no? Poi va in questo PC, in questo case che stai registrando, lì regoli tutto col mixer, con l'equalizzatore, tutto bello, e va a finire all'altro case anche c'è il programma di registrazione, c'è Cubase, c'ho altri programmi con l'editi Voodoo eccetera eccetera. Quindi quando stai registrando praticamente vai dentro alla registrazione con la regolazione già tutta pronta. Se vado a registrare direttamente al programma che ho in questo qua, non registra, esce male perché non lo assume, deve essere di un'altra fonte il segnale per registrare. Io ho capito. Viene male.